Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento il sabato e la domenica con i settimanali italiani e stranieri. Ho detto i settimanali, ma più propriamente diciamo i magazine in generale, perché voglio cominciare da un mensile che viene presentato con il Sole 24 Ore. Ne parliamo in occasione di ogni nuova uscita. Questa volta in realtà ne parliamo con qualche giorno di ritardo, perché il nostro mensile, appunto, la cui sigla sta per Intelligence in Lifestyle, è già disponibile da qualche giorno in edicola. Lo trovate comunque sempre in vendita con il nostro quotidiano, con il Sole 24 Ore. Su Il, questo mese, tra le tante proposte di lettura, ve ne segnalo innanzitutto una che si lega molto bene al discorso che in qualche modo possiamo fare questa mattina e che riguarderà il lavoro e i tempi del lavoro, che sono tempi sempre più incerti, sempre più dilatati. Allora, Vecchia Finlandia è il titolo dell'articolo, è una corrispondenza da Helsinki firmata da Alessandro Giberti. Perché questo titolo curioso? Perché nessuno in Europa ha un tasso di occupazione dei senior cosiddetti così alto, del 55%. Cioè, che cosa è successo in Finlandia? Hanno voluto incentivare le persone, diciamo, sopra i 50 anni a restare al lavoro, sopra i 50, ma diciamo anche più in là con gli anni. Vi leggo qualche passaggio. Cosa fa un paese di poco più di 5 milioni di abitanti, la Finlandia appunto, quando scopre che il numero di persone che va in pensione supera quello dei nuovi ingressi sul mercato del lavoro? Fa harakiri probabilmente, a meno che non abbia avuto la lungimiranza di preparare se stesso all'epocale cambiamento di assetto socioproduttivo. E la Finlandia appartiene a questo secondo ordine di paesi, perché si è da tempo attrezzata al famigerato tornante. A queste latitudini il tornante è appunto quello in cui i nuovi ingressi sul mercato del lavoro non bastano a sostituire quelli che escono. Si è preparata a questo tornante che si è registrato nel 2010 e ha allungato la vita produttiva dei suoi cittadini. Sai che novità, dirà qualcuno, tutta l'Europa sta aumentando l'età pensionabile dei lavoratori. È vero, ed è così vero che ieri forse avete letto sul Sole 24 Ore questo rapporto dell'Ocse. L'Ocse fa annualmente un rapporto sulle pensioni e anche l'Ocse dice: attenzione, bisognerà alzare l'età pensionabile per tutta una serie di considerazioni. Il fatto che, grazie al cielo, si vive tutti un po' più a lungo, e il fatto che diventa difficile, vivendo più a lungo, garantire delle pensioni diciamo civili, sostenibili, adeguate a questa platea sempre più numerosa, e anche per il fatto che i nuovi ingressi nel mercato del lavoro spesso non possono contare su retribuzioni, come dire, sufficienti, adeguate a mantenere la platea crescente dei pensionati. Quindi si allunga la vita produttiva dei cittadini, tutta l'Europa, conferma Alessandro Giberti, sta aumentando l'età pensionabile dei lavoratori, ma in Finlandia sono proprio gli stessi lavoratori che non si danno per finiti. E qua due numeri. Nel 95 il tasso di occupazione dei senior finlandesi, quindi parliamo di coloro che avevano tra 55 e 64 anni, era del 34%, cioè ne lavorava uno su tre, in piena media europea. Nel 2009 il dato è passato al 55,5%. In Europa la media si è alzata, ma fermandosi al 43%. Il segreto è molto semplice: soldi. Nel 2005 Helsinki ha approntato una radicale riforma del mercato del lavoro, centrata sul segmento della popolazione lavorativa più matura, ha fissato l'età pensionistica tra i 63 e i 68 anni. La forbice incarna la volontarietà, cioè il lavoratore stesso che decide quando e come fermarsi, e per consigliarlo a seguire la strada sperata, cioè a restare al lavoro, il legislatore ha stabilito un incremento salariale annuo che è pari al 4,5% per ogni anno a partire dai 62 anni di età. Il che significa che se un finlandese decide di ritirarsi alla fine di questa scala particolare, quindi a 68 anni, il suo trattamento pensionistico sarà rivalutato del 23% rispetto a quanto avrebbe intascato 5 anni prima. E da qui appunto la voglia delle persone tra i 55 e i 64 anni che vivono in Finlandia di restare al lavoro. Ma in realtà di tempi del lavoro, non solo di tempo complessivo, quindi quanti anni dovremo lavorare, quanti anni potremo lavorare e con quali speranze poi di assegno pensionistico, di tempi del lavoro sono anche una discussione che riguarda proprio il lavoro di tutti i giorni, cioè forse lavoriamo troppo. Ora sembra strano dirlo nel momento in cui in realtà la crisi e la disoccupazione che ne è derivata sta provocando il problema opposto, cioè sta creando delle espulsioni anticipate dal lavoro. Ma il fatto è che poi chi resta nel lavoro ha spesso l'impressione che i tempi si siano enormemente dilatati. I settimanali in questi giorni sembrano proprio confermare questa impressione. Ad esempio, da Panorama, lavorare troppo non fa male soltanto alla vita privata, a lungo andare distrugge anche la carriera. Sembra paradossale, ma questo è quello che sostiene un cacciatore di teste che si chiama Roberto Dincau, che appunto si occupa di trovare persone per le aziende, e queste aziende hanno un desiderio particolare, vorrebbero delle persone felici, felici di lavorare. Roberto Dincau spiega su Panorama, appunto, si chiama Work-Life Balance, equilibrio della vita lavorativa. In Italia, dice, ne parliamo pochissimo, ma sbagliamo, perché negli Stati Uniti è un tema di cui si dibatte da tempo. Semplificando molto, questi tre termini, work-life balance, significano riuscire a trovare le giuste priorità tra lavoro e quella vita privata che non è fatta solo di interessi e svago, ma soprattutto di relazione con il partner, con le amicizie, con il tempo per se stessi e tutte le occasioni di crescita che non sono necessariamente collegate alla carriera. Spiega Dincau che l'argomento riguarda da vicino moltissimi italiani, ma da noi lo si ritiene un tema elitario, anche perché, ripeto, lamentarsi di lavorare in una fase economica come questa, beh, insomma, verrebbe da dire ci vuole del coraggio. Però se i tempi del lavoro non sono adeguati, in realtà questo non è produttivo per nessuno, non è produttivo per il lavoratore e non è produttivo per le aziende. Lo stesso Dincau riepiloga: soltanto 10 anni fa, sull'onda di una coda di yuppismo da New Economy, far carriera, sacrificare tutto il lavoro sembrava ancora doveroso, un prezzo da pagare senza pensarci troppo. Nel mio lavoro di cacciatore di teste, prosegue, non mi capitava mai allora di sentirmi dire dai candidati che la vita privata era per loro importante, che era una priorità significativa tanto quanto la professione. Oggi invece mi accade molto spesso di sentir dire che in ambito professionale una delle priorità è anche avere tempo per sé e per le relazioni. Le persone oggi sono molto più restie a cambiare lavoro in cambio di benefici soltanto economici e di carriera, e soprattutto se la prospettiva è quella di intraprendere un percorso lavorativo che peggiora gli equilibri professionali. E poi ancora, sempre da Panorama, il superlavoro può all'apparenza portare buoni risultati immediati e permettere rapide ascese, ma alla lunga non porta, avverte Dincau, da nessuna parte. Conduce solo al disequilibrio interiore e di conseguenza a un fallimento anche sul fronte professionale. Questa è l'indicazione di Dincau, ma come sapete, sulla necessità di osservare i tempi di riposo, oltre che i tempi di lavoro, è sempre stata molto presente anche la Chiesa. La Chiesa che, ad esempio, si è battuta per evitare le aperture incondizionate dei negozi, dei centri commerciali anche durante la domenica, eccetera. Famiglia Cristiana questa settimana si occupa proprio dei comandamenti, si sta conducendo un'inchiesta da parte di questo settimanale proprio sui comandamenti. Uno dei comandamenti, come sappiamo, come abbiamo tutti imparato, è ricordati di santificare le feste. Ecco, è chiaro che se si tende a lavorare troppo, così come ammoniva Dincau, diventa un po' difficile poi santificare le feste. Ma Stefano Zamagni, che è uno studioso di economia sociale, autorità nel campo del terzo settore, dice: la festa è più antica del riposo, avverte dalle pagine di Famiglia Cristiana, a parte che ha origini bibliche, come sappiamo, ma fino alla prima rivoluzione industriale le due cose coincidevano, poi hanno iniziato ad allontanarsi. Gli chiedono: quando è che si dividono esattamente? Una trentina d'anni fa, con l'avvento della globalizzazione e della società post-industriale. Si cominciano, spiega Zamagni, a formare due concezioni. La festa, essendo di origine culturale e religiosa, non si adatta a tutti, quindi va diversificata. Allora il sabato, il venerdì, la domenica, resta il riposo. Ma questo riposo ha bisogno di turnazioni. E gli chiedono: ma il riposo non lo si vuole abolire? La risposta di Zamagni è molto netta: il riposo è un comandamento comandamento, ma è un comandamento universale, ma non per motivi umanitari o religiosi, anche per i liberisti più sfrenati, deve essere garantito a tutti per ragioni biologiche. E qui si torna al burnout, come lo chiamava D'Incao su Panorama: chi è stanco si logora e non rende. E anche per gli economisti gli chiedono: il fatto di lavorare di più, quindi guadagnare di più, non è sinonimo di felicità? No, dice, guardate che c'è il paradosso della felicità. Il paradosso della felicità, elaborato nel 1974 da Richard Easterlin, ricorda Zamagni, dice che nella nostra società avanzata la felicità cresce, ma cresce fino a una certa soglia di reddito, perché dopo questa soglia tende a diminuire, come in una curva rovesciata. Allora Easterlin parlava di $22,000 l'anno, adesso sarebbero circa 80.000 euro. Io, augurandovi di essere proprio prossimi a questa soglia di felicità, mi fermo un istante e ascoltiamo le informazioni sul traffico. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo prendendo spunto da diversi articoli di diversi settimanali e mensili per parlare proprio dei tempi del lavoro, tempi della vita lavorativa complessiva, quindi con le prospettive di innalzamento dell'età pensionabile. Andremo in pensione più tardi, o si tenderà sempre ad andare in pensione più tardi, ma soprattutto abbiamo dei tempi di lavoro durante la nostra vita professionale, la nostra vita lavorativa, che tendono a essere sempre più sfumati. Tanto che appunto anche il tempo del riposo o il tempo da dedicare alle relazioni personali viene meno, e questo con in realtà con degli effetti nocivi per il lavoro, per quanto possa sembrare paradossale. Cioè diamo fin troppo tempo al lavoro e questo finisce per non fare bene al nostro stesso lavoro. Del tema, vi dicevo, si occupa Famiglia Cristiana. Famiglia Cristiana poi viene in una intervista con Zamagni a parlare anche delle aperture domenicali, e gli chiedono, Francesco Anfossi che realizza questa intervista dice: ma le feste non deprimono i consumi? La risposta di Zamagni, da economista ripeto, è: ma qui nessuno è mai riuscito a dimostrare che tenendo aperti di domenica o nelle altre feste aumentino sensibilmente i consumi. Aumentano casomai i vantaggi, però diminuisce anche l'unità familiare, che per altro favorisce i consumi. Questo l'ammonimento di Zamagni dalle pagine di Famiglia Cristiana. Ma se cambiamo settimanale e andiamo su Donna Moderna, Annalena Benini firma un articolo significativamente intitolato "Negozi aperti anche la notte, occhio alla trappola". Perché sarebbe una trappola questa del 24 ore su 24? Perché alla fine, più che tradursi in maggiore libertà, significa che non ci si ferma mai. Vi leggo il sommario che spiega questo articolo: dai barrucchieri alle librerie fino alle palestre, ora pure in Italia vanno di moda negozi che allungano l'orario fino alle ore piccole. La prima reazione, ovvio, è di entusiasmo, e lo conferma il nostro sondaggio. Il sondaggio realizzato da Donna Moderna ha un 91% di lettrici favorevoli ai negozi aperti fino a tarda notte e un 9% non favorevole. È magnifico, prosegue appunto Elena Benini, vivere come a New York o a Tokyo, però attenzione, tanta flessibilità nasconde in realtà un trucco, perché sempre aperto non significa più libertà, ma solo che non ti fermi mai, e il tempo per dedicarsi davvero a se stesse si sposta sempre più in là. Vi leggo qualche passaggio dell'articolo su Donna Moderna. Dice: l'idea di un parrucchiere aperto 24 ore su 24, almeno fino alle 2 di notte, potrebbe essere risolutiva. Vado a tagliarmi i capelli a mezzanotte, dopo aver fatto partire la lavatrice, preparato una riunione, congelato il ragù, poi torno a casa, non potendo dormire perché altrimenti rovinerei la messa in piega, allora mi siedo, lavoro al computer fino all'alba, quando i bambini si svegliano. Una magnifica idea, ironizza Annalena Benini, per ottimizzare i tempi. Tanto potrò schiacciare un pisolino in ascensore se magari si rompesse, come mi è accaduto l'altra volta. In realtà a New York, a Londra, a Berlino, questo è già storia, funziona benissimo. Perché? Perché il tempo, quando non c'è, bisogna inventarselo, bisogna essere creativi, dare la possibilità all'avvocatessa della City di comprare il latte, alla studentessa di dipingersi i capelli di verde prima di entrare in discoteca, alla commerciante di fare shopping fuori dagli orari dei negozi e alla manager di ritirare le camicie del marito dalla lavanderia dopo le 9 di sera. Però attenzione, Non mi stupisce, prosegue la Benini, che il sondaggio commissionato da Una Moderna sia in così schiacciante maggioranza entusiasta per i negozi aperti a oltranza. È la vita che ce lo chiede. Solo uno sparuto gruppo di signore ha detto no, perché sono reazionarie e ci tengono alla saracinesca che si abbassa alle 19:30, oppure perché hanno fiutato la trappola. La trappola c'è e noi sappiamo intrappolarci con grazia. La trappola è l'idea che le nostre ore di lavoro, impiego, carriera, cura, siano infinite. Non c'è più un calendario della giornata, soprattutto non c'è il senso della fine della giornata. Nicoletta Tiliakos è intervistata appunto da Annalena Benini, femminista storica, giornalista e anche esperta di questioni bioetiche, dice se l'idea dell'aperto sempre significa semplicemente che non ti fermi mai, che il tempo delle donne non esiste più, che allora se vai dal parrucchiere alle 10 di sera potresti pure stirare una camicia alle 9:30, tanto poi ti rilassi. E la Tiliakos si ricorda di una vecchia zia che aveva un negozio negli anni 60. Era costretta ad andare dal parrucchiere alla stazione Termini da un coiffeur che era aperto per i viaggiatori. Si chiamava la casa del passeggero. In famiglia però questa signora non veniva associata a un'idea di modernità, ma invece a un'idea di schiavitù. E allora forse è il caso di pensarci un momento a come utilizziamo il nostro tempo di lavoro, a come invece identifichiamo il nostro tempo di riposo. Ad esempio ci sono alcuni personaggi che sono stati raccolti dal collega Marco Loconte in un libro che viene in libreria proprio in questi giorni, si chiama Stregati dalla Corsa, e la particolarità è che sono tutte persone molto impegnate che tuttavia trovano poi il tempo di correre, anzi trovano nella corsa il modo, come spiega lo stesso Loconte, di accelerare nella professione e nella vita, quindi la corsa come aiuto a trovare un equilibrio. Il libro si chiama Stregati dalla Corsa, 9 ritratti di manager runner, così si chiamano, che correndo appunto, dice, hanno accelerato nella professione e nella vita. Ci sono tra gli altri tra le altre persone sentite da Loconte il presidente IMS Antonio Mastrapasqua, c'è Gianni Morandi, Lorenzo Sassoli De Bianchi, Paolo Garimberti e altri ancora. Lo trovate in libreria proprio in questi giorni, Stregati dalla Corsa. Ma se proprio volete decidere di non fare nulla in questo fine settimana, vi segnalo che in edicola con Il Sole 24 Ore trovate anche I Viaggi del Sole, dedicato alle città d'arte, soprattutto ai tesori della provincia, cioè città magari meno battute dai tradizionali itinerari turistici, ma non per questo meno interessanti. La scelta questa volta del mensile è niente Roma, né Firenze, né Venezia, ma andare a cercare altre mete ugualmente belle, ugualmente interessanti. Agrigento, Ravenna, Verona, Bologna, Arezzo, Pavia, Treviso e altre ancora. Le trovate, ripeto, in edicola con Il Sole 24 Ore. E allora, con questa ultima segnalazione di lettura, ma anche di svago, se volete, dopo aver parlato a lungo di lavori, di tempi di lavoro, concludiamo la nostra puntata di Magazine 24. Come sapete, Magazine 24 torna anche la domenica alla stessa ora. Io ringrazio Paolo Corleoni questa mattina in regia, grazie come sempre anche ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Potete riascoltarlo, potete mettervi in contatto con noi utilizzando il nostro sito www.radio24.it. Buona giornata a tutti.